vestiti sporchi. Lei lavorava sempre senza riposare mai. Guardava il mondo da una piccola finestra grigia. Sognava un principe a cavallo per portarla via verso una terra piena di frutti di amore ed alberi, boschi incantati a guardare. Viveva con una matrigna brutta e vanitosa, due tenere sorelle pronte come diavoli. Avevano ricchezze dalla nascita alla fine, ma la invidiavano per dei motivi semplici. Lei era piena di amore, bella e sincera al sole, tutti convinti a credere che ballo nel palazzo di quel principe, ma loro vollero per forza chiuderla in cantina. Le apparve poi una fata e lei riuscì a fuggire via, bella e splendente corre verso il destino che l'attende, riesce a sposare proprio chi. Palazzi, ma